Dunque, è stata una settimana, 5 giorni di lavori, dal lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio. Era organizzata l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e il titolo ufficiale era Centri di Ricerca e Organizzazione della Scienza nell'Italia Unita. Con una introduzione che si chiamava L'Università tra Legislazione e Opinione Pubblica sul quadro generale, fatta da me e da Ilaria, che riprendeva sostanzialmente le relazioni di Siena, un po' più allargate per la maggior disponibilità di tempo rispetto alle relazioni senesi, ma insomma il quadro che si veniva proponendo era quello. Le altre relazioni erano invece tutte di storia della scienza in senso più stretto, più specifico, e direi addirittura, salvo un paio di casi, di storia delle discipline, che è un sottosettore della nostra ricerca che poi noi dovremo in qualche modo affrontare, al di là, una volta in qualche che in modo esaurito l'aspetto della ricostruzione del grande quadro d'insieme non è evitabile. Allora dicevo, l'eccezione era quella costituita dalla CAITE e Maiocchi, che hanno parlato del Politecnico di Milano. La CAITE in realtà più che altro dell'ambiente culturale milanese preunitario, è del così, tessuto di istituzioni e di così, organizzazioni che hanno poi sorretto la nascita e la vita dell'Istituto Tecnico Superiore di Milano, poi Politecnico. Insistendo molto e a ragione sulla funzione di raccordo e confluenza di istituzioni preesistenti che l'Istituto Tecnico Superiore poi svolse, ma la stessa cosa avviene a Firenze con la nascita dell'Istituto degli Studi Superiori, questa è una dinamica tipica della fase poi unitaria, si crea il nuovo risistemando in gran parte, ridando vita a cose che ci sono. E analizzando poi sempre la CAITA la modificazione delle figure degli insegnanti del Politecnico che andrebbero verso una crescita, un'affermazione sempre più forte della figura dell'insegnante professore e uomo di scienza, mentre all'inizio sono pratici, sono ingegneri pratici, quindi una modificazione in questo senso. Per altri aspetti è stata meno soddisfacente, secondo me, la relazione di la CAITA. Non ben centrata, direi, la figura e il tipo di iniziativa che è grosso, che è una partita a livello nazionale intrapresa da Brioschi, che è l'uomo che fa il Politecnico, ma che è l'uomo che fa la pubblica istruzione in Italia nei primi anni dopo l'unità e che non fa solo un'azione, come invece lui ha cercato di mostrare, legata alla divulgazione della cultura scientifica e all'affermazione della cultura scientifica, in senso proprio, la sezione letterario-storica del Politecnico, che fatto si fa della rivista. Che loro comprano, dell'ex rivista di Cattaneo, che loro comprano, si fa di fatto a Firenze, la fa in gran parte Villari, insomma è un tentativo grosso di imporre una svolta culturale a livello nazionale, non è una cosa milanese e puramente centrata sulla scuola per gli ingegneri, diciamo. Insomma, mentre l'impressione mia è stata che lì si tendesse a puntare più su questo aspetto. Maiocchi invece ha trattato la storia del Politecnico dal 27 in poi. Soffermandosi poi di fatto soprattutto sui vari aspetti del rapporto col fascismo, con una serie di notizie anche molto interessanti, di specificazioni su singoli settori di ricerca e sul peso di una certa ideologia nell'orientare anche l'atteggiamento dei docenti del Politecnico. Lui dava molto spazio soprattutto all'idea del primato scientifico italiano, che è forte, che è radicata nella comunità scientifica e che viene poi sfruttata abbastanza abilmente dal fascismo per legare a sé questi uomini, e poi dal grande momento di prestigio e di funzione assegnata a certi settori dell'intellettualità tecnica con l'autarchia. Questi si sentono in effetti coinvolti in prima persona nella realizzazione di un progetto politico che gli dà molto spazio, i quadri tecnici, e aderiscono su questa base. Le tre relazioni centrali direi che sono state però quella di Giuseppe Giuliani dell'Università di Pavia sulla fisica, quella di Guerraggio Anastasi, Milano, Palermo sulla matematica, e quella di Ceruti, Torino sulla chimica, che sono tre relazioni di storia disciplinare. Fra l'altro sono testi che sono presenti, credo tutti e tre, in questo volume appena uscito da Franco Angeli a cura di Ancarani sulla scienza accademica nell'Italia Unita. Adesso non mi ricordo il titolo esatto, ma è una novità. E matematica. Ancarani, che è un sociologo di Torino, credo che sia quel sociologo di Torino. E dice. Organizzazione della scienza, sì. E dicevo, di queste tre relazioni, al di là dei dati numerici che sono sempre stati forniti con molta correttezza, quadri dell'insegnamento, studenti, numero degli studenti, numero dei laureati, che fra l'altro fanno segnare una evoluzione quantitativa molto lenta, questo era un dato comune a tutti questi interventi, una constatazione comune a tutti gli interventi. Io sono stato piuttosto colpito dall'impiego sistematico, che magari per un sociologo della scienza è banale, ma che nei nostri settori disciplinari non viene poi molto praticato, di indici per misurare l'adeguatezza a livello internazionale, a livello scientifico e di organizzazione scienza internazionale, quindi la presenza italiana a livello europeo, la crescita, diciamo, di queste funzioni. E sono vari, e poi usati in maniera molto diversa, il numero di pubblicazioni, associazioni professionali, sempre tenendo poi conto delle dimensioni molto ridotte delle comunità scientifiche, le pubblicazioni italiane su riviste straniere, le relazioni affidate a italiani in congressi internazionali, dando un quadro abbastanza variato, in realtà, complessivamente di progressiva adeguatezza della scienza italiana a livello europeo, che conosce poi una stasi già dagli anni intorno alla prima guerra mondiale, poi molto forte col fascismo. Sempre sulla base di questi indici si vede. Mancarani non ha parlato lì, no. No, no, io sto parlando di queste tre relazioni contenute in questo volume, no, no, contenute nel volume di, ma non è suo, è un libro a cura di. Come? Sì, c'è altra roba, sì, c'è altra roba oltre a questa. Sì. Io non sono riuscito ancora a procurarmi perché sai che aveva avuto questi problemi, si era stato ritirato perché c'era un grave errore di stampa, ero saltato dei pezzi, ma ora è uscito. Giuliani, Guerraggio, Anastasi e Ceruti. Che non è venuto. Sì, no, il titolo esatto non è quello, insomma, scienza accademica, organizzazione della ricerca, insomma. Sì. Dicevo, particolarmente interessante secondo me è stata proprio invece la relazione dei due matematici per la sistematicità con cui tutti questi aspetti venivano trattati, sia quantitativi sia di indici, di valutazione del peso della scienza italiana a livello internazionale. Sia poi per il modello che loro hanno cercato di dare delle modalità interne di sviluppo di una comunità scientifica, che era legato poi a tre parametri che loro indicavano: sistema per svilupparsi, sistema matematico, evidentemente non solo quello della cultura matematica, aveva bisogno di articolato su tre parametri, quello della produttività, quello della legittimazione sociale, quello dell'autonomia professionale, usando quegli strumenti proprio di sociologia della cultura, in una maniera molto intelligente, molto garbata. Per produttività si intendevano canali di formazione e di selezione all'interno del sistema, garanzia delle devianze scientifiche, della possibilità di rottura dalla scienza normale per permettere nuove forme di creatività e capacità di organizzare la comunicazione, quindi riviste, presenza, recezione della produzione italiana all'estero e presenza nel circuito internazionale. Per la legittimazione, soprattutto il gioco ideologico, la valenza dell'utilità, che certo per la matematica pura pone dei problemi, insomma, a differenza che per la chimica o per la fisica. Per l'autonomia professionale, quindi la libertà scientifica, garantita in questo caso poi dallo Stato, le strutture universitarie dello Stato, e la capacità di comunicare a livello internazionale. Così se si provasse a fare una qualcosa che nessuno ha provato a fare, che io sappia, o applicare parametri del genere per la storiografia, ad esempio, si scoprirebbero cose abbastanza interessanti per quello che riguarda la cultura italiana, la sua proiezione o il suo peso all'estero. Inoltre ci informavano questi scienziati su alcune iniziative documentarie di grande rilievo, cioè loro stanno sistemando e stanno curando l'edizione di alcuni carteggi di matematici, di scienziati, Cannizzaro, chimico, Cremona, matematico, che ebbero un grandissimo peso anche nella vita parlamentare, senatori, relatori. Quello che volevo chiedere, scusami, come parametri c'è anche la partecipazione alla vita politica? Non è stata sistematica, hanno puntato più a illustrare le grandi figure. Il chimico ha parlato molto di Cannizzaro, sì, che sarebbe stato il grande patrono della chimica italiana a livello senatoriale per tutto il periodo dell'età liberale, e poi Cremona, chiaramente, altro grande senatore e relatore. Quindi diciamo, sono iniziative di documentazione di grande rilievo per la storia dell'università italiana. Sì, ma Molleschott ne ha parlato un po' Pogliano, che ha fatto la lezione sulla fisiologia, e su cui poi tornerò un attimo. Quindi è stato da questo punto di vista un incontro di grandissima utilità, anche proprio informativa. Sono persone da tenere assolutamente presenti, secondo me, sia diciamo Giuliani, Guerraggio, Anastasi, Ceruti. Poi nella relazione dedicata alla chimica si è dato chiaramente più largo spazio, ma era ovvio, al rapporto con col mondo della produzione, sottolineando però le grandissime difficoltà che avrebbe avuto la chimica italiana, a differenza di quella tedesca, che era chiaramente l'esempio portato in continuazione, di raccordarsi concretamente col mondo della produzione industriale fino alla Prima Guerra Mondiale, che è la grande svolta. Il momento in cui si interrompe il flusso di prodotti chimici e di brevetti dalla Germania, che era la fonte di alimentazione dell'industria italiana, anche poi fisicamente, cioè i chimici spesso erano tedeschi, quelli che lavoravano come gli ingegneri, che lavoravano nelle industrie, c'è un enorme sforzo della scienza italiana in questa direzione, che riesce anche in maniera decorosa a provvedere quantomeno di materiali bellici lo sforzo nazionale. Però ecco, il momento vero di raccordo della chimica accademica, della ricerca accademica con il mondo dell'industria, veniva collocato con la guerra mondiale, non prima. Prima si viveva indipendenza diretta dalla Germania, mi sembra, adesso non ricordo, non ho qui l'appunto esatto, ma che Ceruti, che parlava della chimica, avesse dato anche informazioni sul numero dei brevetti, che è chiaramente un altro degli indici per verificare la produttività del sistema. Più marginale, non tutt'altro che non interessante, ma più marginale anche per l'oggetto, è stata la relazione sugli osservatori astronomici, che mostrava anche lì però le grandi difficoltà di finanziamento e di strumentazione presenti nella vicenda italiana postunitaria. E invece poi, di nuovo molto interessante, anche se in fondo meno sensibile all'aspetto istituzionale, è stata la relazione di Claudio Pogliano sulla fisiologia. Meno sensibile all'aspetto istituzionale solo in parte, perché lui in realtà ha fornito una ricostruzione, proprio un albero genealogico delle filiazioni accademiche, quindi comunque studiando la struttura dell'insegnamento. Però ha centrato più il suo discorso sulle influenze culturali, sul passaggio della fisiologia italiana dall'influenza francese, dalla dipendenza dalla cultura francese alla dipendenza dalla cultura tedesca, quindi sottolineando più gli aspetti, diciamo, di storia della cultura, di storia della disciplina in senso intellettuale, di produzione scientifica, che non di organizzazione materiale del sapere. Comunque Pogliano è secondo me una persona indispensabile per la prosecuzione delle nostre ricerche, per la larghezza delle competenze e anche la capacità di lettura e di interpretazione dei testi che ha. Quindi ecco, io su questo potrei ritenere concluso.